Buonasera a tutte e a tutti, mi chiamo Gregorio e faccio l'avvocato a Roma. Grazie per l'invito. E, diciamo, parlare del DDL 1660 oggi si può fare in vari modi. Io quello che avevo pensato di fare è innanzitutto un intervento possibilmente stringato per non esagerare, ma non entrare in tecnicismi, specificità tecniche. Poi se qualcuno ha domande sia prima che dopo non c'è problema, ma provare a fare più un inquadramento generale, che mi sembra una questione molto più utile che incagliarsi a provare a capire tecnicismi anche abbastanza articolati. Questo progetto di legge, che verrà approvato sicuramente verrà approvato nei prossimi mesi, è in qualche modo l'ennesimo decreto sicurezza, quella che è ormai quasi una tradizione politica in questo paese, ma un po' in tutta Europa e forse in tutto l'Occidente, che si basa fondamentalmente su due pilastri. Uno è prettamente propagandistico, utilitaristico da parte dei partiti, e infatti è un qualcosa che viene portato avanti indistintamente più o meno da chiunque vada al governo. Chiunque va al governo, con toni e linguaggi differenti, ma poi in sostanza facendo cose assimilabili che vanno nella stessa direzione, fa il suo decreto sicurezza, perché da un punto di vista di propaganda politica è un qualcosa che ritengono che gli serva. L'altro pilastro su cui questa roba si regge è un qualcosa di più reale, più concreto, ed è una coscienza del potere di avere bisogno di un aggiornamento costante dei propri strumenti repressivi, ma soprattutto un aggiornamento che sia preventivo. E infatti questo decreto di sicurezza, come tanti altri precedenti, arriva non in un momento di forte conflitto sociale, non in un momento in cui ci sta chissà quale emergenza o insubordinazione da affrontare da parte del potere e non ci stanno riuscendo, ma è preventivo, è costruito sull'immaginare che cosa potrà succedere. Il potere è perfettamente cosciente e consapevole che le condizioni di vita vanno costantemente peggiorando, questa cosa prima o poi da qualche parte sfoga, e loro semplicemente lavorano in prospettiva, lavorano in avanti. Nel fare questo, un'altra premessa, si basano su un'idea molto semplice: fare una legge repressiva è facile, eliminare una legge repressiva è molto più complicato, soprattutto nel clima politico generale che in Italia si è costruito lentamente a partire dalla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, con da Tangentopoli, Mani Pulite in poi, in qualche modo. Dall'altra parte c'è il contesto internazionale. Un contesto internazionale di guerra all'esterno richiede strutturalmente un maggiore disciplinamento all'interno, una maggiore capacità repressiva all'interno. Inserendosi in questo quadro, questo decreto sicurezza è un qualcosa di più, è un passo ulteriore rispetto a tutti quelli precedenti che abbiamo avuto negli ultimi, diciamo, 15 anni più o meno, i 6-7 che in un modo o un altro si sono susseguiti. E perché è oggettivamente più incisivo, ha delle norme più repressive, ma soprattutto più incisive, più sul reale. E si basa su, di nuovo, un'idea politica, un'idea di politica della repressione e politica della giustizia penale, che più o meno già affiorava qua e là, ma che in questo caso viene strutturata in maniera molto più ragionata, anche tecnicamente fatta meglio rispetto a tentativi precedenti. Ed è l'idea di costruire un diritto penale del nemico e un diritto penale dell'amico. Provando a rendere semplice qualcosa che dietro ha enormi ragionamenti, soprattutto da parte del potere, in ogni aula di tribunale, chiunque ci sia entrato o l'abbia anche solo visto in TV, c'è scritto la legge è uguale per tutti, che è uno dei principi base dall'illuminismo dei diritti occidentali, non solo, ma in Occidente in particolare. È una frase però che si presta anche volutamente a una confusione, genera un errore. Si pensa che la legge valga ugualmente per tutti. No, la legge è uguale per tutti, che è una cosa differente. Vuol dire semplicemente che la legge si applica indistintamente a chiunque nello stesso modo. Ma nulla vieta che una legge sia pensata per una categoria specifica di persone e agisca su una categoria specifica di persone, da un lato. Dall'altro, nel momento in cui in una società di diseguali, in una società divisa in classi, una legge si applica nello stesso modo a tutti quanti, è ovvio che questa legge andrà ad avere un effetto differente su diverse persone. Proviamo a prendere uno degli articoli anche meno analizzati di questo DDL, ma forse uno dei anche più brutti in qualche modo, che può rendere questa idea. C'è un severo aggravamento del trattamento sanzionatorio per la donna condannata penalmente che debba scontare una pena e si trova o in stato di gravidanza o ha un figlio inferiore all'anno o fra l'anno e i 3 anni, che era una situazione che determinava una incompatibilità quasi in tutti i casi generale, cioè non si andava, in salvo rarissimi casi, non si andava in carcere se si era incinta o se si aveva un bambino sotto quell'età. Questa cosa viene molto diminuita, sarà molto più, diventa facoltativa per il giudice, cosa che tra l'altro apre un altro discorso. La legge non viene applicata, soprattutto penale, non viene applicata nello stesso modo poi nella realtà da città in città, cioè Roma non è Milano, Milano non è Napoli, Napoli non è Verona, ogni tribunale poi ha le sue specificità. Comunque diventa facoltativo, quindi diventerà realtà che entreranno in carcere molte più donne incinta o con bambini molto piccoli, spesso portandosele in carcere, quindi ci saranno bambini che cresceranno 1, 2, 3 anni fra le sbarre. Oppure, scusami, cioè nel senso, nel caso in cui non se li portano in carcere, la domanda che mi arriva in te, dove vanno i bambini? Servizi sociali tendenzialmente, case famiglia. Però in quel caso si apre una questione a cui non saprei dare una risposta definitiva neanche io qua su due piedi, sul mantenimento della potestà genitoriale, perché poi a quel punto l'intervento dei servizi sociali è un punto interrogativo grande come una casa e vai a vedere poi come si esce. E questa cosa, che è già una cosa oggettivamente orribile, si innesta su un'altra struttura del diritto, in particolare sull'ordinamento penitenziario, cioè la possibilità di sostituire questa pena in carcere con i domiciliari. Ed ecco che viene ad emergere, per esempio, una diversa applicazione del diritto in base alla classe sociale di provenienza, perché molto semplicemente per ottenere i domiciliari in una condizione del genere bisogna avere una serie di requisiti, che sono sostanzialmente requisiti di reddito, perché bisogna avere una casa regolare, quindi o di proprietà o con contratto registrato, sono anche molto severi, almeno a Roma sono molto severi, tendono ad essere spesso molto severi su questo, deve essere una casa al cui interno non ci sono pregiudicati o comunque non ci sono pregiudicati per alcuni reati, non deve essere una casa che già ospita altre persone domiciliari, eccetera eccetera. Ci può addirittura essere una valutazione di non congruità in base a chi ci abita dentro anche in assenza di condanne, e quindi viene a emergere quella dimensione di classe. Io intanto scusate, guardo perché mi sono dato un tempo che era col cronometro, questa dimensione di classe. Detto ciò, questo era per fare un esempio, al diritto del nemico, che è una cosa forse un po' più semplice, ci arriverei dopo, forse addirittura più interessante oggi è la creazione di questo diritto penale dell'amico. L'amico ovviamente dello Stato, del potere e dei soggetti che quel potere è destinato a proteggere, è volto a proteggere, che vengono individuati almeno in questo DDL, che non sarà la fine di questo percorso, forse è uno step iniziale, sostanzialmente ad oggi negli apparati repressivi. e quindi sono tutta una serie di norme introdotte che sono rivolte specificamente al personale militare e di polizia, che ne creano una tutela veramente fortissima, di ferro, tanto per quello che riguarda l'attività repressiva vera e propria, tanto per quello che riguarda anche ciò che c'è al di fuori dell'attività repressiva dei soggetti singoli che fanno parte delle forze dell'ordine e delle forze armate, proprio a creare una categoria deputata a proteggere il potere che abbia degli enormi privilegi in forza di questa sua funzione. E andando a prendere appunto quelle, le norme un po' più piccole, meno visibili all'interno del DDL, si trovano anche delle cose molto interessanti. Per esempio, vi è l'instaurazione di un fondo anche molto cospicuo che andrà a coprire le spese legali degli appartenenti alle forze dell'ordine per qualunque processo gli venga fatto per motivi di servizio. Quindi il prossimo celerino che finirà a processo, quella volta sul milione che capita perché viene ripreso da 15 telecamere mentre sfonda qualcuno, avrà fino a 40.000 euro di spese legali pagate. 40.000 euro di spese legali sono tante, soprattutto per un processo del genere. E dall'altra parte, proprio per questi due filoni, viene sostanzialmente completamente liberalizzata la possibilità per gli appartenenti alle forze dell'ordine di portare addosso armi sia private che di servizio al di fuori del servizio, senza la necessità di avere alcun porto d'armi specifico, che tra l'altro per un appartenente alle forze dell'ordine sarebbe anche relativamente facile ottenere. Qui addirittura vanno a togliere questo elemento burocratico, formale, proprio questa è veramente una norma simbolica, perché nella realtà gli va a cambiare relativamente poco, oddio, non così poco, però non tantissimo, ma è una norma da un forte impatto simbolico, perché è un riconoscimento di quel ruolo quasi da giustiziere. Tu sei un poliziotto e sei un poliziotto sempre in servizio e fuori servizio, e la cronaca degli ultimi anni è piena di appartenenti alle forze dell'ordine che fuori servizio, coinvolti o non coinvolti in un fatto criminoso, sparano più o meno a caso in mezzo a strade, vicoli, e conosciamo bene anche i nomi dei morti in questo caso. Dall'altra parte, un'altra norma forse passata un po' sotto silenzio nelle prime analisi di questo DDL, istituzionalizza un qualcosa che nei fatti è sempre esistito in questo paese, ma non era mai stato formalizzato in questo modo. È una disciplina specifica degli apparati dei servizi segreti che regola quelle che sono diciamo la normativa quadro sugli infiltrati. La possibilità per appartenenti dei servizi segreti o con alcun, vabbè, in alcuni casi appartenenti alle forze dell'ordine, di infiltrarsi in gruppi criminali, sia che siano criminalità comune, sia che siano criminalità mafiosa, sia che siano gruppi politici, era già prevista nel nostro ordinamento, era stata ben strutturata negli anni 70, c'era, ma era la possibilità di infiltrarsi, ovvero di far parte, di entrare all'interno di un consesso, entrare all'interno di un'organizzazione. Oggi, con questo DDL, viene introdotta la possibilità legale di qualcosa che esisteva già, ma adesso viene in qualche modo legalizzato, per questi soggetti delle forze dell'ordine o dei servizi segreti infiltrati, la possibilità di essere promotori, addirittura essere organizzatori, cioè di creare da zero un'organizzazione che poi andranno a reprimere, che utilizzeranno per reprimere, che utilizzeranno come esca. Le cose sono, le possibilità sono tante, e si unisce a, tra l'altro, quello che è l'articolo 1 del DDL, l'introduzione di un ulteriore aggravamento delle leggi antiterrorismo, con quello che ha tutti gli effetti l'ideazione di questa idea del terrorismo e la parola, per cui viene a essere punita il semplice possesso di scritti che, secondo un giudizio che poi a quel punto diventerà estremamente arbitrario, vengono considerati prodotti da strutture considerate terroriste, o addirittura nei contenuti apologetici o addirittura partecipativi di strutture riconosciute come terroristiche. Per provare a stringere il più possibile, facendo un salto nelle cose invece che avrà, queste sono cose che avranno ovviamente un'applicazione molto puntuale, nel senso piccoli punti qua e là, passando sulle cose che avranno un'applicazione più diffusa e che rendono questa idea di un diritto penale del nemico e un diritto penale nel nemico, perché adesso, finora abbiamo parlato sostanzialmente di attivismo e militanza, ci sono una serie di norme, sulla militanza ci sono altre norme, sono norme specifiche contro i movimenti, contro le grandi opere che siano notabili o altro, c'è la nuova norma sul blocco stradale, anche fatto semplicemente col corpo e non ostruendo la strada, che è particolarmente severa, e altre. Ma al di là dell'individuazione del nemico nei militanti, c'è l'individuazione anche di altri soggetti nemici, che sono fondamentalmente gli esclusi, sono i poveri e i migranti. Alcune norme particolarmente incisive su questo sono, per esempio, un nuovo reato di occupazione che viene introdotto, che per alcuni tipi di occupazione, cioè quelli che hanno ad oggetto appartamenti, cioè locali destinati al domicilio, quindi non il capannone industriale, eccetera, eccetera, viene introdotto un nuovo reato di occupazione che però stravolge quello che è sempre stato la struttura del reato di occupazione in Italia, che andava a punire esclusivamente chi faceva l'occupazione, cioè chi materialmente entrava e prendeva possesso del locale. Chi arrivava successivamente o partecipava successivamente o dava una mano o portava solidarietà non era punibile secondo le norme del 633. Con questo nuovo delitto che viene introdotto di occupazione, a essere punite saranno tutte queste condotte, non solo chi materialmente occupa, ma anche chi subentrerà dopo o anche a distanza di anni, chi porta solidarietà, chi fa un picchetto antisfratto sotto, tutti allo stesso titolo, tutti per occupazione, come se anche chi fa il picchetto sotto avesse occupato. E cosa che da città a città cambierà, per esempio una città come Roma potrà avere, a seconda di come la interpreteranno le procure, un impatto molto forte, verrà riconosciuto il reato di occupazione anche in caso di mancato rilascio obbligatorio dell'immobile, quindi fondamentalmente in caso di sfratto. Se non si adempie allo sfratto, se non si esce spontaneamente ma si resiste allo sfratto, si rientrerà in questo nuovo reato di occupazione. Poi, sempre andando molto veloce, vengono introdotte delle norme molto odiose su carceri e CPR. Certo. Ma e qui hanno il scopo abitativo? Non rientrano in questa. Non si deve essere toccato. Quello non viene cambiato. Su quello interviene quella che è stata la prima legge del governo Meloni, il decreto rave, però non è questa grande novità, cioè è meno incisiva rispetto a questa. E sempre riguardo l'occupazione, se non abbiamo capito male, c'è anche la questione che chi infama fondamentalmente viene premiato, cioè nel senso, mesi che, come succede non a Verona, però ci sono palazzine occupate e il tuo vicino di casa, anch'esso occupante, dà delle informazioni su di te, un occupatore che non vuole lasciare la casa, in teoria non è che viene, non penso, premiato a soldi, ma in teoria viene... Beh, allora sì, questa cosa è prevista, fondamentalmente è un esimente, quindi viene assolto, cioè può venire assolto dal reato commesso nel momento in cui offra una collaborazione. Anche qua non è una novità, è un recupero di un qualcosa che è stato ampiamente usato dal punto di vista proprio legislativo negli anni 70 e negli anni 80, è un recupero di quel concetto. Ma allo stesso tempo io vi posso raccontare tranquillamente che a Roma, in una città come Roma e sicuramente in altre città, ma quella in realtà che conosco io, è una pratica che già viene percorsa dai carabinieri. In determinate occupazioni i carabinieri hanno fatto un lavoro scientifico di individuazione dei soggetti più deboli, più fragili, magari con delle dipendenze dall'alcol e dalle sostanze, presi da parte, circuiti, convinti a denunciare tutti gli altri, tutti arrestati, occupazione sgomberata, e il tipo invece che magari prende diciamo casa popolare. Il documento ufficiale legge il fatto che se sei infame, esatto, hai una riduzione di pena. È quello. Dicevamo su, e poi magari su questo chiudo se ci sono altre domande, poi me le potete fare. Su carcere e CPR viene introdotto questo nuovo reato di rivolta che va a punire anche quelle che sono le forme di resistenza non violente all'interno della struttura. Questo vuol dire tutto, sostanzialmente qualunque comportamento, soprattutto in una struttura che è controllata solo dal soggetto che deve rilevare e controllarti, eccetera eccetera eccetera, è sostanzialmente un contraltare e anzi uno strumento che disinnesca quel reato di tortura che un minimo era riuscito a incidere sui comportamenti della polizia penitenziaria. Questa roba è assolutamente orribile, potrà portare a delle conseguenze abbastanza devastanti nelle carceri sicuramente, ma probabilmente ancora di più nei CPR, laddove la consapevolezza del singolo internato di dove si trova e perché è estremamente più bassa, perché questi poveracci vengono presi, sbattuti dentro, in una situazione amministrativa, quindi senza le garanzie del penale, quindi qualcosa di particolarmente incisivo. Io su questo mi fermerei, sperando di essere riuscito a fare questo quadro appunto non tecnico ma un po' più generale su come funziona questo DDL e su che cos'è questa distinzione fra diritto penale dell'amico e diritto penale del nemico che questo DDL assume e introduce non per primo ma nella maniera più strutturata fatta fino adesso. Sono molto interessato a sentire cosa ti dirà dopo. Grazie. Allora, io farò un breve intervento, più una, sono delle considerazioni che in quanto femminista ci sono venute con il mio collettivo, quasi naturali. E, un po' perché, come ha detto Gregorio, in realtà nell'analisi di questo nuovo decreto sicurezza ci si è resi conto ancora meglio di quanto in realtà questo processo di appunto trasformare le istituzioni di controllo quasi solo in repressive oltre che di controllo, in realtà è un processo che è nato con gli anni 90, in cui fondamentalmente, come diceva lui, con tutte le leggi che sono state fatte sulla mafia, in realtà si è strumentalizzato quel problema per utilizzarlo in realtà fondamentalmente sempre per quello che riguardava la politica. Quindi anche tutta questa cosa del testimoniare, della delazione, in realtà noi ce la ritroviamo mascherata per proteggerci dalla mafia, ma in realtà è uno strumento che era nato esclusivamente per distruggere i movimenti politici e la lotta armata negli anni 70. Negli anni 90 quindi il potere diventa in qualche modo paternalista, e un'altra cosa che succede dagli anni 90 fino ad arrivare ad oggi è semplicemente più lampante, è il fatto che prima in realtà vivevamo in un contesto molto più collettivo e di risposta collettiva. Piano piano invece la società, per come si è strutturata, ecco, la forza del capitalismo e di quello che poi sono state le sue evoluzioni fino ad arrivare adesso con varie definizioni, possono essere l'ultraliberalismo o eccetera, siamo arrivati a una società invece che ci ha individualizzato molto e quindi ha permesso di far passare un concetto di cittadinanza, però non è un concetto di cittadinanza che riguarda appunto una comunità o una collettività, ma è la cittadinanza in senso premiale, per cui se io mi comporto da bravo cittadino aggiungo punti alla mia tessera. In realtà questa cosa esiste già in città tipo Bologna, dove se ti comporti bene, ma come la patente a punti, c'è anche qua. Qua c'è strade, quartiere sicuro, operazione... No, non tanto strade sicure, il controllo del vicinato. Esatto, il controllo del vicinato, questa casetta col cuoricino, Bene. Fai le segnalazioni e la chiamano partecipazione attiva. Esatto. Diventa sbirro. Perché questo concetto di, appunto, di cittadinanza attiva nasce negli anni 90, cioè nel senso esplode negli anni 90, in realtà permette fondamentalmente di veicolare tutte queste piccole cose che in realtà non hanno creato invece un'attivazione, una comunità o comunque un rapporto collettivo, ma hanno distrutto in realtà quello che era la solidarietà che c'era, che era naturale, pensando all'esempio degli sfratti delle case occupate negli anni 70, negli anni 80, quando succedeva una situazione del genere era tutto il palazzo o tutto il quartiere a scendere per strada e riattaccare la luce se veniva staccata, addirittura gli operai si rifiutavano magari di staccare l'acqua, staccare la luce o mettere i lucchetti alle porte. Questo perché c'era un senso, diciamo, più collettivo, che piano piano ovviamente il potere attraverso leggi e comportamenti e rendendo la nostra vita dal punto di vista economico, che è poi stato quella la leva su cui ha giocato, più difficile, distruggendo paesi con le guerre, facendo aumentare l'immigrazione, distruggendo ogni possibilità di diritti che erano stati guadagnati prima e quindi distruggendo il lavoro, distruggendo ogni singola cosa. E anzi, qua ci siamo quasi fortunati perché comunque ancora la sanità è pubblica più o meno e anche la scuola, ma non so, insomma. E quindi il governo è diventato paternalista, cioè è lui che si occupa di tutto, come diceva del diritto dell'amico, è l'amico che protegge il governo, l'istituzione, perché è l'istituzione che si occuperà di noi, solo e soltanto però se noi ci comportiamo bene, quindi qua la premialità. Questa cosa il femminismo l'aveva già capito perché purtroppo le donne sapevano già che nei contesti familiari, nei contesti istituzionali, nei contesti lavorativi, in realtà noi potevamo stare solamente seguendo le regole imposte dalla società, per cui potevi fare la donna in carriera solo se rispettavi determinati canoni, potevi comportarti in un certo modo ma solo all'interno di casa tua e non lo puoi fare fuori, e quindi questo comportamento premiale da brava ragazza, da brava donna. In realtà le donne in realtà l'hanno attraversato nei decenni ed è veramente triste vedere che purtroppo questo è passato, in realtà si è allargato a tutta la società. In sociologia ormai qualche decennio fa hanno chiamato come è strutturato il lavoro ad oggi come femminilizzazione del lavoro, cioè l'azienda è diventata la famiglia e tu e il lavoro di cura, che era il lavoro delle donne esclusivo, è diventato un approccio che tu dovresti avere nei confronti della tua azienda, del tuo lavoro, del tuo capo, non solo della tua famiglia. E già noi donne sapevamo bene che insomma il lavoro di cura imposto non è un lavoro di cura ma è un lavoro, e questo non ci viene tuttora nel 2024 riconosciuto. Ma addirittura è stato esteso a tutti e tutte. Quindi un altro passaggio importante che ha portato ovviamente a far arrivare questa legge un po' così in sordina e poi è arrivata la botta finale è stato anche il fatto che il concetto di sicurezza dagli anni 90 in poi è diventato un concetto privato. Cioè la sicurezza non è più la sicurezza dello Stato, della città, delle persone, no? Cioè una volta c'erano le cinta murarie che difendevano, non so, dall'attacco dei nemici della città vicina. Però era la città che si proteggeva. Ora, certo, c'era sempre la questione delle classi, ovvio. Però quantomeno c'era il tentativo di proteggere chiunque stesse lì dentro. Nel momento in cui invece si è cominciato a parlare di sicurezza privata, la sicurezza privata è diventato un concetto di appunto ancora più classista, perché chi si può permettere di mettere telecamere, cose, le guardie, eccetera, è più protetto. E quindi hanno fatto passare il fatto che chiudersi fosse in realtà qualcosa che dà sicurezza, quando invece sappiamo perfettamente che il chiudersi come gesto, come attitudine, non ci porta a fare il contrario. E un'altra cosa che ci tenevo appunto a dire era appunto di che diventa appunto chi si ribella a qualcosa o semplicemente non vuole seguire, non è d'accordo con quello che viene detto, in realtà diventa il nemico. Quindi come in guerra, cioè il concetto di guerra, che era un concetto diciamo esterno almeno al vivere quotidiano, in Occidente ovviamente, e qui in Italia adesso, perché ormai è dovunque, fa sì che appunto chi va fuori dalla norma, qualunque essa sia, che può essere anche aver parcheggiato male, sia il nemico. E questo ovviamente non aiuta il concetto di ricostruire un tessuto solidale, anche perché appunto hanno creato nuove categorie a cui puntare per cioè il fatto che la povertà o l'essere un migrante sia di per sé, anche quando si sono inventati il reato di clandestinità, si sono inventati un reato semplicemente per creare un nuovo nemico. E quindi questo. Un'altra cosa che ho trovato interessante nel documento che è stato fatto da Core, che è questa assemblea, è che si immagina, e qua sembra una cosa da film hollywoodiano quasi, in cui si parla di una cosa che si chiama psicoreato e psicopolizia. Io non so, ma c'era un film di Tom Cruise, forse dei primi 2000, che si chiama Minority Report, in cui esistevano delle macchine, dei computer, che prevedevano la possibilità che una persona compisse un reato e la polizia interveniva prima che il reato fosse compiuto. In realtà, dalla lettura anche di avvocati, ma di compagni e compagne, di ricercatori, eccetera, ci siamo resi conto che la direzione che si sta prendendo è esattamente quella, quindi di prevenzione del reato, in modo tale questo che non... c'è il nuovo atto sull'intelligenza artificiale, perché in America viene già usata per più o meno per questo, in Italia invece, cioè in Europa... In teoria la nuova normativa sull'intelligenza artificiale prevede che ci sia una diciamo un'analisi predittiva, individuazione predittiva del colpevole, ma questa intelligenza artificiale può essere usata in quest'ambito solo ed esclusivamente nella fase pre-indagine, cioè per individuare ipotetici colpevoli, ma poi non può essere utilizzata diciamo a processo per adesso, quindi in realtà noi siamo diciamo tutelati rispetto ad altri stati, però d'altra parte nel senso non è che non c'è, si usa e che ha un limite fino adesso, ecco. E non so, con questo invece il DL si andrà oltre, ma per ora no. Ancora ora non c'è, però appunto come dici tu sì. Calma, uno alla volta. E quindi appunto io penso che pensiamo anche come collettivo femminista che in realtà sicuramente sarà molto difficile trovare delle modalità di risposta a un impianto repressivo così forte e tenace, anche perché appunto nel momento in cui va a inserire premialità e delazione, quindi fare la spia come diciamo appunto valori di cui vantarsi, e in realtà sarà molto più difficile tenere il tessuto. Però io penso che quello che il femminismo un po' può diciamo portare come aiuto alla lotta per i diritti e le lotte politiche sia proprio quello di non perdere un legame, di creare delle reti, creare un tessuto, confrontarsi e unire tutte le piccole battaglie che sono quelle per appunto del decreto sicurezza, che sono quelle delle donne migranti, che sono quelle di chi lotta per la casa, chi lotta sul lavoro per avere delle condizioni lavorative migliori, e riuscire a creare delle reti sempre più fitte, in realtà quantomeno per creare delle basi in modo tale da provare a vedere cosa può succedere dopo, perché non è che non ho idea di cosa, quali siano gli scenari, però so solo che le uniche volte che abbiamo vinto delle battaglie è quando in realtà siamo riuscite a impattare contro l'istituzione in maniera forte e decisa. Quindi il mio auspicio, il mio augurio è quello di capire come sostenerci e fare, diciamo, da blocco unico contro questa valanga che ci sta per arrivare addosso. E per me, insomma, io... Gregorio voleva dire una cosa. Io, perdonatemi, mi sono reso conto di essermi dimenticato di chiudere l'intervento con le due frasette, ma ero... ripromesso assolutamente, devo dire, proprio quelle che sono centrali, ho dimenticato. E visto che non volevo fare un intervento di disperazione, lanciare solo paura, nonostante qualcosina qua là bisogna mettere, e, c'era una cosa con cui secondo me è importante concludere. Abbiamo parlato di attacco alla militanza, individuazione di un nemico nei militanti, nei migranti, nei poveri, di aumento della repressione, di dimensione di classe del diritto penale, però c'è un qualcosa, un elemento che è in grado di non contrastare appieno, però di opporsi a tutto questo, e sono le reti sociali ed è la solidarietà. E questo lo posso dire non a livello teorico, per quanto sia validissimo anche solo a livello teorico, ma proprio a livello pratico, nella mia esperienza quotidiana nei tribunali. Chi affronta una qualunque parabola repressiva, che sia un processo o anche solo cose meno gravi di un processo, da solo, non è neanche ottiene un risultato, ma ha una vita che è una cosa. Chi riesce e ha la possibilità, per quello che si è costruito prima, per il contesto in cui è inserito, ad affrontare una dinamica repressiva, che sia un processo o d'altro, avendo intorno a sé una rete di solidarietà, di amicizie, di supporto, è tutta completamente un'altra storia, e si riesce, ancora si riesce, a disinnescare almeno alcune parti della repressione. Da soli, no. Grazie. Comunque...